IA, intelligenza in prima linea. Se c'è quella artificiale, cos'è quella umana? Di Federico Pedrocchi. Una cosa importante da sottolineare quando si discute, si approfondiscono i temi dell'intelligenza artificiale è che possono esserci anche delle altre intelligenze, cioè altri modi di fare delle cose bene e in modo efficiente usando procedure, usando strumentazione, usando quindi hardware e software che non necessariamente devono essere bravi e intelligenti come siamo noi, non devono confrontarsi con noi. Questo è un tema che emerge con particolare chiarezza in quella che è la gestione logistica degli archivi. Tutti noi siamo portati a pensare che un grande magazzino dove adesso vanno avanti e indietro i robot sia semplicemente un posto nel quale, poiché le macchine si muovono velocemente, abbiamo più efficienza per il semplice fatto appunto che c'è più capacità di muoversi. Ebbene, non è così. Potrà essere sorprendente, ma non è così. A parlare di questa cosa ho qui con me Giambattista Grosso. Benvenuto Grosso. Salve a tutti. Docente al Politecnico di Milano e però uno dei più abili esperti di Industria 4.0 e di innovazione nell'automazione di fabbrica. Ecco, dicevo poco fa Grosso che questi magazzini che si stanno moltiplicando oggi usano un'altra logica. Oggi, guardando alle intelligenze artificiali, non si può parlare di un'unica forma di intelligenza, perché se noi pensiamo anche al nostro essere, è ormai riconosciuto dalla psicologia che abbiamo tanti modi di essere intelligenti in maniera diversa. Oggi una delle intelligenze più interessanti è quella che viene chiamata intelligenza degli sciami o intelligenza degli stormi, perché se noi pensiamo agli stormi di uccelli che ottengono un risultato collettivo ma senza che questa intelligenza sia dovuta a un leader che dice dove questo stormo deve andare a cercare il cibo o meno, ma semplicemente per il fatto che tra di loro c'è una rete di connessioni molto semplici che danno degli scambi di informazioni minimali che permettono a questo enorme branco di pesci o stormo di uccelli di raggiungere un obiettivo in maniera collettiva senza avere collisioni internamente e altro. Bene, nella logistica dei magazzini il punto chiave è essenzialmente lo stesso, cioè dove questi oggetti che sono in grado di muoversi all'interno del magazzino, ognuno di loro ha il suo compito ben stabilito, però sono governati da una legge naturale, se vogliamo chiamarla in questo modo, che fa sì che le iterazioni fra i singoli oggetti siano garantite in ottica di raggiungere questo scopo collettivo senza avere collisioni, senza avere delle ridondanze e tante altre cose. Allora, se io guardo le linee di codice di software scritte per svolgere questa attività, queste linee di codice sono effettivamente poche rispetto a quello che potrebbe essere la complessità del problema, ma è proprio l'iterazione, la gestione dell'iterazione fra gli stati che ognuno di questi oggetti ha che permette di portare avanti questo obiettivo collettivo in modo congiunto. Cioè i robot si dividono i compiti per andare a prendere certi oggetti piuttosto che altri, che magari sono un classico caso è Amazon, no? Che vende, esatto, di tutto. Decidono loro come distribuirsi i compiti per andare a prendere questi oggetti? Conoscono il proprio stato, conoscono lo stato dei propri vicini, conoscono, hanno un'indicazione sul percorso che devono fare e in base a queste poche informazioni sono in grado di stabilire con delle semplici regole di priorità qual è il robot più vicino, più scarico in termini di costo dell'energia che è a bordo o di costo in termini di peso che ha già attivato, e in automatico prende lui la decisione di andare in una certa direzione e comunica agli altri: guarda che sto andando io in quella direzione. Ho capito. Questa azione viene fatta con semplicissime regole, quindi non con delle logiche contorte o complesse di analisi, ma con lo stabilire delle semplici regole che per quanto diano origine a algoritmi complessi in termini di matematica, però sono facilmente eseguibili da una macchina. Ecco, le chiedo questo, però si aggiunge anche un altro fattore, cioè in questi magazzini non c'è lo scaffale delle scarpe e poi lo scaffale delle matite e quello dei cellulari. Mi pare che siano, si dice insomma, che siano organizzati con dei criteri diversi, e cioè quelli, gli oggetti anche di diverso tipo che sono più richiesti perché arrivano da certe città dove c'è un traffico maggiore. Quindi c'è una capacità di usare appunto, in questo caso sì, la velocità delle macchine per muoversi e recuperare oggetti, ma mixandola attraverso dei criteri di ordinamento che non sono appunto quelli molto ben suddivisi e classici. È noto che se io devo cercare un oggetto in una scatola e devo tirar fuori tutti i miei oggetti, ho sicuramente la fortuna che l'oggetto che sto cercando si troverà alla fine. E questo fa sì che io devo svuotare l'intera mia scatolone per arrivare all'oggetto che si trova finale. Allora, già per esempio far cercare in queste scatole in modo casuale significa che se io sono fortunato inizio dalla metà, probabilmente io avrò una risposta in metà del tempo rispetto a cercare dall'inizio. Queste logiche, abbinate al fatto che io posso oggi avere una rete neurale di informazioni che deriva dai big data e altre cose, che mi permette di dire quegli oggetti come sono richiesti, quando sono richiesti, quali sono le caratteristiche del consumatore che le utilizza, quindi permette non solo di accedere in maniera casuale al magazzino, ma anche di disporre i beni nel magazzino in un'ottica casuale, che sarà quella statisticamente più probabile. Quindi non è il robot in sé ad essere intelligente, ma è l'unione tra semplici task affidati ai robot e una statistica abbastanza evoluta che mi permette di stabilire quali saranno le probabilità che un certo oggetto venga richiesto in un certo momento, a rendere molto efficaci questi robot. Cioè, se ho capito bene, scelgo la strada della casualità che mi dà più probabilità, ma naturalmente lo posso fare anche perché ho un sistema di accesso estremamente veloce, estremamente efficiente. Esatto. Se lo dovessero fare degli umani non sarebbe il sistema migliore. Diciamo, l'essere umano è più abituato all'ordine, no? che non alla casualità. E in una fabbrica dove il magazzino dei pezzi deve alimentare la produzione, ecco, come vanno lì le cose già oggi? Ne parlo con Ermanno Rondi della X, azienda che si occupa di logistica avanzata nelle fabbriche. Ermanno Rondi, benvenuto. Salve a tutti. Allora, com'è questa movimentazione in una grande fabbrica modernissima come quella della Fiat, nella quale lei col suo gruppo sta lavorando, questa movimentazione in cui ci sono uomini e macchine che portano pezzi, che svolgono funzioni? Ci descrivo un po'. Ma la tendenza di oggi è integrare la logistica di fabbrica con i sistemi produttivi più moderni. Di conseguenza, mentre prima c'era tutta una movimentazione fatta in modo manuale, dove si spostavano dei pallet con dei carrelli frontali, quelli che venivano chiamati muletti, oggi ci sono dei magazzini automatici che muovono delle cassette, dei sistemi di convogliamento che portano la cassetta giusta davanti al posto di lavoro giusto nel momento corretto, in funzione di una pianificazione per riuscire a fare un oggetto diverso dall'altro. Quindi non c'è più il famoso lotto economico che produceva tanti pezzi tutti uguali, ma viene fatto un pezzo diverso dall'altro a seconda di quali sono state le esigenze del cliente che ha comprato quel tipo di auto. Allora, aspetti ingegnere, perché qui lei ci ha dato, come dire, il titolone generale, adesso lo smontiamo e rimontiamo perché è pieno di cose fascinose ma non chiarissime. E intanto lei dice quello che è cambiato enormemente è che a valle abbiamo un cliente che dice: sì, però io voglio le stelline blu e non quelle gialle sul sedile, no? E sul rivestimento. Quindi con una infinita declinazione della domanda. Però lei mi diceva: prima c'era un magazzino con dentro tutti i pezzi, no? Certo. Che però erano pochi. Diciamo che erano un magazzino. La differenza sostanziale è che prima c'era un magazzino in cui i pezzi venivano stoccati a pallet, quindi grandi volumi, che prevedeva poi una produzione di altrettanti grandi volumi. Sì. Adesso il magazzino invece è gestito con delle cassettine, nelle cassettine ci sono pochi pezzi e i pochi pezzi servono per realizzare certe tipologie di prodotti. Ma mi scusi, parliamo di uno di questi pezzi, potrebbe essere il volante? Potrebbe essere il volante, può essere la testa del motore, può essere l'albero motore, può essere uno qualsiasi dei componenti che realizzano un prodotto. Un prodotto, la macchina finale. Ma allora, prima lei diceva c'erano dei bei pallet con su 50 volanti, no? Sì. Adesso invece il robot va a prendere una cassettina. Questa cassettina qui che cos'è? Questo è un gergale che voi avete, ma cosa contiene? Un volante? Sì, contiene un volante, oppure se parliamo dell'albero motore magari ne contiene 5, se parliamo di un altro componente ne contiene 10, ma un numero basso, finito, di pezzi che possono essere mossi molto velocemente. Molto velocemente. E prende questa cassetta e la porta in una postazione dove c'è un gruppo di operai che sta montando quel tipo di macchina? O un robot o un gruppo di operai che stanno montando un certo particolare. Quindi, se vogliamo, siamo ritornati a una forma artigianale ma industrializzata della produzione. Non è che quando l'artigiano faceva una porta aveva davanti un pallet di cerniere delle porte, aveva davanti le cerniere che gli servivano. È vero. Ecco. Ma allora, scusi, c'è un gruppo che deve montare un dato giorno, così si presenta, arriva nella propria stazione di lavoro e che cosa ha? Un foglio praticamente in cui si dice, beh, oggi allora facciamo come prima questa qui. Beh, oramai i fogli non si usano più, certo. Quindi avrà un video. Avrà un video che dice, oggi facciamo dice, questa qua. Oggi, no, non oggi, ma in questo istante devi produrre questa roba qui che è fatta così, che ha bisogno di questi pezzi e davanti gli si presentano i pezzi che deve utilizzare per formare quel tipo di oggetto. Quel tipo di oggetto, quindi vuol dire che non è che stanno montando la macchina intera, magari faranno una parte. Per esempio, può essere la stessa logica, poi la si usa per montare una macchina, per montare una ruota, per montare un motore, piuttosto che per montare un qualsiasi elettrodomestico. Però oggi chi comanda è il consumatore, non è più la fabbrica che butta fuori dei pezzi tutti uguali, non siamo più a Ford, scegliete quel che volete, basta che sia nero, sia il modello T. Siamo esattamente all'opposto. È rovesciato. Oggi ognuno sceglie perché è andato a cercarsela sul web, perché si è informato. Oggi il consumatore è molto più cosciente di ciò che compra rispetto al passato. Certo. Le sue scelte, definisce qual è il suo prodotto, come lo vuole, e la fabbrica deve essere in grado di realizzare quel prodotto il più velocemente possibile, ovviamente con la qualità attesa. Per oggi mi fermo qui. Buona intelligenza a tutti e a tutte. Per scrivere intelligenza artificiale a con le due a @radio24.it.